fausto giorno in cui vengo battuto delle lire di suore il fiero orgoglio io non cerco gli applausi e non mi curo basta che le superbe di Andromeda che vive la difesa il mio amor pianga deluse disdegnose e confuse mirino il seno a tetti cambiato in duro scoglio il ministro crudel della vendetta e più dunque sospetta sciolganzi questi lacci della bella innocente e ravviso ogni ninfa ogni pastore di persi o fortunato il braccio invitto l'amoroso cuore Signor, ira del fato, ti accosti col valor della tua destra, opportuno soccorso al comune dolor. Silenzio impose, io non crede già più su questi campi, lieto condur la greggia, né rallegrar col canto il regio armento. Merce mi sembra men grave il peso di canuta etade e parmi che risorga in me vivace la già perduta e sospirata pace in queste sponde I pastori canti nel gradio che noi sapere Vino, pensiero, vino, vino, vino, vino, vino Su queste sponde I miei cuori What? Thank you.

lascerò queste arene, lasso Mi disse che da riso de mortali. La gioia che pare a me così bella cangia sembiante e d'improvviso male l'alma riempie che non bell' intende. Miseri, a quale stato siamo condotti e quale orrendo fine ci minaccia il cielo? Onde sdegni e furori ogni valle risuona, in van si spera e in vano e si priega e si piange. Oh tempi, oh sorte, Perseo giura vendetta e niega ingrata Andromeda la fede alle promesse. Questa nuova sciagura che mi sembra un fantasma, un sogno, un'ombra d'eccessivo dolor. L'anima ingombra. Oh, Thank you. cieca sorte, tanto m'affligge tanto, e se ben tu non vedi quest'occhio lacrimar, ne scopri il pianto. Questa del mio dolor, pietà che dici, tanto per me crudele, non saresti. Già nemico d'amor, amar non voglio, Andromeda da lo sai. Ama che giusto il tuo Perseo fedel, che bello merta, io parto. Almeno non partir si presto, odi. Che tu parta quando caro mi sei quanto mi piaci se da me speri amore la speranza è un delirio che ronno in questa guisa l'amor mio tu disprezzi Con tal vigore nella mia libertà servo il piacere. Piacente è troppo e fiero a quest'almo d'aniso che ti vive. Ma piacer che mi giova. A dirmi sì tu, disdegno che mi formare. Già te lo dissi ancor, non voglio amore.